Come vi dicevamo, insomma, noi tra le tante cose che sono accadute in questi strani giorni di queste settimane, dove ne accadono veramente tante, c'è stato anche questo sgombero appunto del centro sociale Il Molino. Molti e molte di voi, insomma, lo conosceranno, un posto bellissimo, l'ex mattatoio, con delle sale bellissime, una sala cinema bellissima, dei compagni accoglientissimi. Comunque sicuramente in una città come Lugano un posto necessario proprio per quello che Lugano rappresenta, insomma, al di là. Insomma, non è solo la Svizzera, Lugano è proprio un po' il luogo per me anche dei casinò, perché... da dove escono i sedicenti. Ma anche perché quei posti sono necessari in qualsiasi Esatto, invece per fortuna c'era un posto come il Molino, che è stato veramente, come dicevo, non solo un posto di attività, resistenza alternativa veramente alla versione danarosa del capitalismo, ma sicuramente è stato un posto accogliente che manteneva questo fuoco acceso nella città. E quindi lo sgombero sicuramente era stato, lo sapete, insomma, c'era area di sgombero, ma non così. Io Sì, noi ora vi presenteremo giustamente delle testimonianze, i contributi che ci racconteranno, giustamente ci faranno un po' la cronaca di quello che è successo, e dopo proveremo ad avere direttamente una comunicazione telefonica con alcuno dei compagni. Che dici? Sì, io direi così, anche perché Dai. Mi sa che i compagni andavano un po' di fretta, quindi io Andiamo comincerei con gli audio che ci fanno appunto la cronaca di quello che è successo. Ciao compagne, grazie per questo spazio, per avere la possibilità di poter parlare di quello che sta succedendo in questo momento a Lugano, rispetto alla questione del centro sociale occupato, autogestito, Il Molino. Il 29 maggio 2021 a Lugano ha avuto luogo una bella manifestazione variegata, colorata, rumorosa, anche allegra, partecipata da diverse centinaia di persone contro lo sgombero del CSO al Molino e a favore dell'autogestione. Alla fine di questa è seguita l'occupazione dell'ex istituto Vanoni, una struttura in disuso appartenente a una fondazione che promuove e sostiene la creazione di un centro chiuso per minori quinticino. Questa occupazione doveva essere lampo per una tazza, una zona temporaneamente autonoma fino alla una di mattina, per poi tornare nei nostri spazi. Il municipio di Lugano ha invece colto l'occasione per sgomberare il Molino dallo spazio dell'ex macello e demolire la parte che ospitava chi passava al centro sociale, chi ci viveva e chi da settimane resisteva contro la minaccia di sgombero, senza preavviso e soprattutto senza permettere agli occupanti di riprendere i propri effetti personali. Una cosa schifosa. Sia alla TAZ che allo sgombero di istruzione del Molino c'erano anche antisommossa del Canton Vaud e di Ginevra. Infatti diciamo che la presenza della polizia di altri cantoni e anche la questione delle ruspe, insomma, fa chiaramente pensare che il tutto sia stato fortemente calcolato, no? E preparato in anticipo. Domenica, dopo il ritrovo a metà pomeriggio vicino alle macerie di parte del Molino, ci siamo spostate in un centinaio più o meno davanti al municipio per disturbare molto rumorosamente la loro vergognosa conferenza stampa sui fatti della sera prima. Insomma, nonostante tutto sta succedendo un bel casino qui. Ieri lunedì, assemblea di 300 persone di ogni età, interventi emozionanti e di qualità creativa e politica da parte anche di tante giovanissime e di tanti giovanissimi. I fascisti, che a quanto pare volevano venire in forze per disturbare come hanno fatto sia sabato che domenica, non hanno osato nemmeno farsi notare troppo, uscendo neanche questa volta umiliati. Dopo l'assemblea siamo andate a trovare il sindaco Marco Borradori sotto casa sua, con canti, slogan e qualche insulto meritato. Dopo quasi un'ora, in cui era presente anche la polizia, ma con la quale non c'è stato un grande scambio, ci siamo incamminate pian piano verso il Molino, dove una volta arrivate, stranamente, non abbiamo trovato nemmeno l'ombra di antisommossa. Così alcune persone sono entrate giustamente riprendere un po' di effetti personali e qualche libro dall'infoshop che sicuramente non sarebbe stato rispettato. Credo, e non sono l'unica, che sperassero vivamente che saremmo rientrati, probabilmente anche per tentare di togliersi dallo tsunami in cui si sono messi, parlo del municipio ovviamente. Infatti, appunto, due municipali su sette non erano nemmeno stati informati dell'intenzione di abbattere la struttura, in quanto si erano già dichiarati contrari allo sgombero. Una, tra l'altro, era proprio la responsabile degli stabilimenti comunali. Inoltre i Verdi hanno fatto una denuncia al municipio per il mancato rispetto delle leggi riguardanti le demolizioni e la messa in pericolo della salute delle persone che vivono lì attorno. Infatti non sono stati fatti controlli sulla presenza, per esempio, di amianto o di altre sostanze nocive, come andrebbe fatto per le strutture costruite prima del 1990. Nella tarda mattinata di oggi si è saputo che ieri sera sono state arrestate due manifestanti accusate di aver violato i sigilli per il controllo delle nocività che potrebbero essere presenti nelle macerie, sigilli che in realtà non erano ancora stati messi. Le due persone sono state rilasciate qualche ora fa. Oggi soprattutto i compagni di partito del sindaco leghista di Lugano stanno cercando di far apparire veramente vergognosamente uguale la loro violenza distruttiva di sabato notte alla nostra visita sorprendentemente pacifica sotto la casa di Borradori. Comunque, domani sera ci sarà un contest di poesie sulle macerie per dare spazio all'emozione di ognuna, di ognuno. E sabato vi invitiamo veramente di cuore tutte quante a manifestare insieme a noi per veramente un momento enorme di solidarietà. Seguiranno informazioni sul luogo e sull'orario in cui inizierà questa manifestazione, in cui ci ritroveremo per questa manifestazione. Concludo ringraziandovi tanto, abbracciandovi forte. Il molino non si tocca e la luce sigue. Eccoci, la luce sigue, il molino non si tocca. E allora noi andiamo un po' di fretta, perché io direi che casomai mettiamo, questi sono i racconti di quello che è successo della progettualità di sabato, però noi volevamo chiaramente fare un po' un'analisi con un compagno che proviamo ad andare a chiamare, perché appunto nel mulino, al mulino a Lugano stanno succedendo cose, perché appunto il mulino è ancora vivo, e quindi vi metterei giusto secondi di musica, giusto il tempo di fargli telefonata, e si torna con questa testimonianza direttamente. È che non era un caso Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina, que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada, estoy desesperada. Miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. E allora eccoci noi al volo, perché sappiamo che hai da fare. Ciao, siamo al telefono appunto con un compagno del Molino, e come ti ho detto noi abbiamo avuto così una compagna che ci ha fatto degli audio in cui ha fatto un po' la ricostruzione di quello che è successo. A me sono stati molto dettagliati, insomma lei ha parlato non solo dello sgombero così presa un po' alle spalle dopo giorni che si resisteva, ma anche di presenze inquietanti a Lugano. Non so tu che cosa altro vuoi aggiungere, insomma, a questa cronaca, nel senso che sappiamo che il mulino adesso è nelle strade, continua vivo, c'è questo appuntamento di sabato, ma poi che succede? Ci sono anche presenze inquietanti, non lo so, facci un po' un racconto. Sì, ciao, anzitutto buonasera a tutti, un caro saluto e un abbraccio a tutti i compagni e compagni romani. Sì, è una situazione che difficilmente molti di noi potevano prevedere in questi termini, anche se è chiaro che c'era area di sgombro, come è già stato detto, ed eravamo tutti abbastanza pronti, tanto è vero che portavo come un corteo contro lo sgombero. Però il gesto, per come è stato compiuto e per la palese manifestazione impronta neofascista, a questo punto di dissoluzione stessa anche del quello che viene definito stato di diritto, che in Svizzera tutti i connotati anche particolari, ha portato ad avere in strada tanta gente fondamentalmente. Le iniziative si stanno susseguendo, sta arrivando veramente molta partecipazione, però è vero che ci sono anche dei retroscena o delle situazioni, come dicevi tu, di gruppetti, di fasci o semplicemente di leghisti che arrivano, provocano e chiaramente devono essere puntualmente mandati via dalla strada, dalla piazza e con tutta una serie di conseguenze. Io penso che poi se quasi mi non sentite? Ti ora sì, quasi non ti sentiamo più. Dici. Ora ti sentiamo. Aspetta che provo a spostarmi un attimo in una posizione più dove si prende di più. Nel frattempo stavo dicendo che magari per chi ascolta dall'Italia bisogna anche descrivere un po' la situazione come è qui, perché giustamente è vero, avete detto Lugano ciò che in parte rappresenta è qua in Svizzera. Diciamo che le città hanno delle autonomie a livello comunale abbastanza importanti sia per quanto riguarda le operazioni di polizia, che altrimenti vengono gestiti appunto dal cantone. Quindi la responsabilità politica di questa azione è evidentemente nel sindaco leghista. E mi sentite ancora? Sì, sì, Marco, ti sentiamo bene. Sì, bene. E appunto le decisioni di questo sgombro sono ovviamente di impronta leghista, in particolare nella persona del sindaco Marco Borradori e del ministro del Dipartimento Istituzioni che comanda la polizia a livello cantonale, quindi del governo cantonale, che è Norman Gobbi. Questo ha creato anche probabilmente una spaccatura a livello partitico, a livello istituzionale, per cui lo sgombero del Molino sta diventando anche un po' l'occasione per diverse aree, realtà che non sono nemmeno molto affini con il Molino, che stanno cogliendo l'occasione per protestare comunque contro questa situazione. Ecco, la parte difficile adesso forse per noi sta nel comunque mantenere quella che è l'impronta politica di uno spazio anarco-autonomo e con tutta una serie di pratiche e di posture che devono essere rivendicate e mantenute, nonostante insomma ci sia tutto ovviamente una grande attesa per poter criminalizzare il momento in qualsiasi momento, come anche stanno provando a fare con gli arresti di due compagni, con l'invio, cioè comunque la complicità con questi gruppetti di neofascisti. Rispetto a questi due compagni, qual è la situazione? Sappiamo che sono stati rilasciati, ci sono delle denunce? Perché sì, so che loro, la storia è che loro erano rientrati per prendere delle cose quando ancora i sigilli non c'erano, poi però diciamo, no, è stata colta l'occasione di prenderseli perché comunque dovevano mettere i sigilli al posto. Certo, sì, sicuramente è stata anche questa un'azione studiata, attesa nel momento in cui il corteo quella sera è arrivato nella zona del centro sociale. Evidentemente si poteva entrare, tante persone avevano voglia e la necessità soprattutto di poter rientrare, poter prendere delle cose che erano rimaste dentro o perlomeno quelle che si erano salvate dalle macerie, e c'erano due agenti di sicurezza privata a presidiare il centro sociale e recentemente sgomberato. Quindi anche questo fa capire un po', no, il lavoro anche di scarica barile, perché le istituzioni tendono a scaricare sulla polizia e la polizia poi nella pratica effettiva scarica sul privato, sull'agenzia privata per per garantire ordine e sicurezza in questa città. E sì, comunque ci sono state delle denunce che sono probabilmente completamente campate per aria. Non c'è stato nessun tipo di aggressione nei confronti dei Securitas, che semplicemente sono scappati vedendo arrivare centinaia di persone. Quindi bene. Sì, capisco, insomma. Senti, io ti dico che, come sai, noi siamo qua per insomma, per il Molino, che continua a essere presente a Lugano. Adesso spero veramente che in tanti vi raggiungano, e tante anche dall'Italia, per venirvi così a farvi compagnia all'iniziativa di sabato. Insomma, noi siamo qua per qualsiasi cosa. Immagino quindi che ci risentiremo presto per continuare a parlare del Molino, che comunque va avanti, mantiene la sua resistenza a queste presenze luride della città, a questi nemici comuni un'altra volta. Quindi non so che cosa vuoi aggiungere, però insomma sappiamo che c'è, la radio è qui, lo sapete, e manterremo l'attenzione, insomma ci torneremo a sentire sicuramente. Grazie tantissime. Sì, io volevo soltanto aggiungere appunto sul corteo che ci sarà sabato, che spero veramente anch'io che possa essere più partecipato possibile, e anche insomma che possa far emergere anche gli aspetti di rabbia che a questo punto riteniamo anche necessari per dare una sveglia a questa situazione. Dall'Italia soprattutto penso che non vediamo l'ora di abbracciare i compagni, perché insomma ci mancano, ci mancate, ed è importante, perché il Molino, insomma, per chi lo conosce, ha avuto anche sempre dei legami molto forti con le realtà italiane, romane e anche di altre parti d'Europa. Adesso in futuro arriveranno anche gli zapatisti in Europa, quindi sta diventando un momento importante. Abbiamo la sensazione che stia diventando un momento importante, che sia qui che sia altrove, è importante la presenza e farci vedere di nuovo nelle strade. Allora, ad abbracciarci presto. Questo anche, ci ricordi da dove parte, a che ora il corteo, anche così la gente si organizza qua, pullman, macchine, chissà. Certo, il corteo è per le 13, partenza da Piazza Rivolta, fu Piazza Riforma di Lugano, che sarebbe la piazza dove si trova il municipio. Dai, grandi. Allora, di nuovo un abbraccio, ad abbracciarci veramente presto, ma comunque ci siamo. Un abbraccio veramente a tutti e tutte. Dai, Molino. Un abbraccio anche da parte nostra e buona serata. Buona serata, ciao. Ciao.